A questo pertinente suggerimento, Mr. Bloom, per cambiare argomento, abbassò gli occhi, ma imbarazzato, in quanto non sapeva come interpretare quell'appartiene, che sembrava venire da chissà dove. Il rimbrotto era più chiaro di tutto il resto del discorso. Inutile dirlo, i fumi della sua orgia recente parlavano in lui con una certa asprezza e una curiosa amarezza, aliena al suo stato normale. Probabilmente la vita domestica alla quale Mr. Bloom annetteva la massima importanza non era stata per lui quello che avrebbe dovuto essere. Oppure egli non aveva frequentato persone come si deve. Con un vago senso di inquietudine per il giovane che gli era alato, che egli scrutava furtivamente con una certa costernazione, ricordando come fosse appena tornato da Parigi, gli occhi più specialmente gli ricordavano molto il padre e la sorella. E non arrivando comunque a far molta luce sulla questione, richiamò a mente vari esempi di persone colte che promettevano brillanti risultati, inaridite poi nel boccio da una prematura decadenza. E la colpa era solamente loro. Per esempio, c'era il caso di O'Callaghan, per dirne uno, il farfallone pazzoide di buona famiglia, per quanto senza mezzi adeguati, con tutte le sue eccentricità. E fra le altre sue follie, quando ormai era finito e si era reso insopportabile a chiunque, aveva anche l'abitudine di andare in giro ostentatamente con un vestito di carta da pacchi, e un fatto accertato. E poi il solito dénouement dopo che lo scherzo aveva raggiunto il limite, e trovò che il terreno gli scottava sotto i piedi, e alcuni amici dovettero farlo sparire, dopo un avvertimento molto chiaro a quelle orecchie da mercante, da parte di John Mullan del governo locale, affinché non andasse a cadere sotto l'articolo 2 dell'emendamento della legge penale, certi nomi di persone citate in giudizio, essendo stati comunicati, ma non divulgati, per ragioni che appariranno chiare a chi abbia un po' di sale in zucca. In breve, tirando le somme, quel 6-16 che aveva fatto finta ostentatamente di non sentire. Antonio e compagni, Fantini ed Esteti, e il tatuaggio che erano in gran voga nel 70 o giù di lì, perfino alla Camera dei Lords, perché all'inizio della sua vita l'attuale occupante del trono, allora erede presunto, e gli altri membri dell'alta aristocrazia e altri gran personaggi, non facendo che seguir le orme del capo dello Stato. Egli rifletteva sugli errori dei notabili e delle teste coronate che battevano in breccia la morale, come nel caso Cornwall. Di qualche anno prima, sotto quella tal loro patina, in un modo non del tutto ossequiente ai fini della natura, cosa severissimamente condannata dalla morale borghese, secondo la legislazione in vigore, ma non per la ragione che loro probabilmente pensavano, qualunque essa si fosse, eccetto le donne, soprattutto, che più o meno stavano sempre lì a tagliarsi i panni addosso tra loro. Essendo anzitutto una questione d'abbigliamento e di annessi e connessi. Le signore a cui piace uno stile personale di biancheria intima devono, come d'altronde ogni uomo che ami la buona sartoria, pur cercando di allargare con allusioni l'abisso che li separa e di dare un sapore piccante agli atti indecenti tra i due sessi, lei gli sbottonò il, e allora lui le aprì là, attento allo spillo. Laddove i selvaggi delle isole dei cannibali, poniamo, 90 gradi all'ombra, non se ne fanno né più in qua né più in là. Comunque, per tornare a bomba, ci sono stati d'altra parte altri che sono arrivati molto in alto, partendo dal nulla, lavorando di gomiti. Pura forza di genio naturale, questo, col cervello, signori miei. Per queste ed ulteriori ragioni, egli sentiva essere non solo suo interesse, ma suo dovere. Perseverare e approfittare di quell'occasione inattesa, per quanto il perché non sapesse dirlo con precisione, essendosi già, come stavano le cose, alleggerito di diversi scellini e lui stesso, a vero dire, responsabile della cosa. Pure il coltivare la conoscenza di una persona di calibro non comune, che poteva fornire abbondante materia di riflessione, avrebbe ripagato ampiamente una qualsiasi piccola. Lo stimolo intellettuale come tale era, a suo di vedere, di tanto in tanto un tonico di prim'ordine per lo spirito. A ciò era da aggiungere la coincidenza dell'incontro, la discussione, il ballo, la baruffa, il vecchio lupo di mare del classico tipo che oggi è qua e domani là, gli sfaccendati notturni. tutta la costellazione degli eventi. Tutto concorreva a formare una vera miniatura del mondo in cui viviamo, specialmente in quanto la vita di quel decimo che vive sotterra, e cioè minatori, palombari, operai delle fognature, eccetera, era da qualche tempo tenuta continuamente sotto il microscopio. Al fine di ricavare il più possibile da quella fulgida ora, si chiedeva se non gli sarebbe capitato qualcosa che incontrasse il favore dimostrato a Mr. Philip Beaufoy, una volta messo per iscritto. Supponiamo che egli avesse a vergare qualcosa del tutto fuori del comune, come egli intendeva fermamente fare, in ragione d'una guinea colonna. Le mie esperienze, vogliamo dire, in un rifugio del vetturino. L'edizione rosa, quella sportiva, del Telegraph, il telegrafo delle bugie, era là, così si dava il caso, proprio vicino al suo gomito. E mentre si stava di nuovo scervellando, tutt'altro che soddisfatto, sopra quel rebus del paese che apparteneva a lui e sul precedente, la nave veniva da Bridgewater e la cartolina era indirizzata ad A. Boudin. Trovare l'età del capitano. I suoi occhi scorrevano distrattamente sulle relative testate che erano della sua partita particolare, l'onnicomprendente Dacci oggi, la nostra stampa quotidiana. Dapprima ebbe come una scossa, poi risultò trattarsi solamente di un certo H. Du Bois, rappresentante di macchine da scrivere o articoli del genere. Grande battaglia. Tokyo, Tresca in Irlanda. 200 sterline di danni. Gordon Bennett. La truffa dell'emigrazione. Lettera di sua grazia a William Croce. L'Ascot. La Coppa d'Oro. Vittoria di un outsider. Buttavia ricorda il derby del 92, quando il cavallo ignoto proprietario del capitano Marshall, Sir Hugo, si assicurò il nastro azzurro contro tutte le previsioni. Il disastro di New York. 1.000 vite perdute. Afta epizootica, esequie del fu Mr. Patrick Dignam. Così, per cambiare argomento, lesse quanto si diceva di Dignam requiescat in pacem, il che, egli rifletté, non era certo un allegro avvio, o un cambio di indirizzo comunque. Questa mattina, di Heinz, naturalmente, i resti mortali del fu Mr. Patrick Dignam sono stati rimossi dalla sua abitazione al numero 9 di New Bridge Avenue, Sandy Mount, per l'inumazione che ha avuto luogo a Glasnevin. Il defunto era una persona molto amata e popolare in tutta la città e il suo decesso, dopo breve malattia, è stato un grave colpo per i cittadini di ogni classe nei quali egli lascia un profondo rimpianto. Le esequie, alle quali hanno partecipato molti amici del defunto, erano a cura, certamente qui c'è lo zampino di Corny, dell'impresa H.J. O'Neill e figlio 164 North Strand Road. Si notavano tra i presenti Patrick Dignam, figlio, Bernard Corrigan, cognato, John Henry Menton, procuratore, Martin Cunningham, John Power Mangidf, un ottavo Ador Dorador Douradura. Deve essere quando lui ha chiamato Monks, il cronista, per quell'inserzione di Kiss. Thomas Kernan, Simon Dedalus, Stephen Dedalus, B.A., Edward J. Lambert, Cornelius Keller, Joseph McInnes, L. Boom, C.P. McCoy, Mintosh e molti altri. Irritato e non poco da quel L. Boom, come erroneamente scritto, e da quella riga di stampa impasticciata, ma simultaneamente divertito al massimo da C.P. McCoy e Stephen Dedalus B.A., che avevano brillato, inutile dirlo, per la loro totale assenza, per non dir nulla di Mintosh, L. Boom fece rilevare la cosa al suo compagno B.A., occupato a soffocare un altro sbadiglio, fatto per metà di nervosismo, senza trascurare la solita messe di refusi idioti. C'è anche quella prima epistola agli ebrei? Chiese l'altro, non appena glielo permise la sua mascella inferiore. Testo, apri la bocca e mettici dentro il piede. Ma certo, c'è, disse Mr. Bloom, pur credendo a tutta prima che alludesse all'arcivescovo, ma dal momento che parlò anche del piede e della bocca, ossia dell'afta epizootica, non c'era alcun possibile rapporto. contento come una Pasqua di mettersi l'animo in pace e un po' esterrefatto, perché Miles Crawford alla fin fine ci aveva pensato lui. Ecco, mentre l'altro stava leggendola a pagina 2, boom, designiamolo per il momento con il nuovo pseudonimo, ammazzò quei pochi istanti di tranquillità a pezzi e bocconi con un resoconto della terza corsa di Ascot in terza pagina. 1.000 sovrane a rendere con 3.000 sovrane in specie, per puledri interi e puledre. 1. Buttavia di Mr. F. Alexander, FB, da Rideaway e Trail, 5 anni, 9 stones, 4 libbre, W. Lane. 2. Zinfandel, M. Cannon, di Lord Howard de Walden. 3. Sceptre di Mr. W. Bass. Totale 5-4 su Zinfandel, 20-1 Buttavia, fuori. Sceptre, un po' più di peso, 5-4 su Zinfandel, 20-1 Buttavia, fuori. Buttavia e Zinfandel conducevano collo a collo, campo aperto, poi l'outsider si fece avanti e prese il comando del gruppo di lontano, battendo il roano di Lord Howard de Walden e la puledra baia Sceptre di Mr. W. Bass su un percorso di 2 miglia e mezzo. Vincitore allenato da Brame, cosicché la versione di Lenehan era completamente fasulla. Assicuratasi la vittoria per una lunghezza. 1.000 sovrane con 3.000 sovrane in specie. Non piazzato, maximum secondo. Il cavallo francese di cui si informava ansiosamente Bantam Lions. Non ancora arrivato, ma atteso di minuto in minuto. DJ de Bremont. Varie maniere di far riuscire un colpo. Danni del far l'amore. Però quel fissato di Lions è schizzato via per la tangente nella furia di rimaner fuori. Si capisce, il gioco si presta per sua natura a cose del genere. Però, da come è andata a finire, quel povero sciocco non aveva davvero di che rallegrarsi della sua scelta, la speranza dell'elitta. In fondo, tutto si riduceva a tirare a indovinare. Tutto lasciava supporre che si dovesse arrivare a questo, disse lui, Bloom. Chi? Disse l'altro, che si era fatto, a proposito, male alla mano. Una mattina si aprirà il giornale, affermò il vetturino, e si leggerà. Parnell è tornato. Ci scommetteva quello che volevano. Una sera capitò in quel rifugio uno dei Dublin Fusiliers e disse d'averlo visto nel Sudafrica. È l'orgoglio che l'ha ucciso. Avrebbe dovuto togliersi di mezzo lui stesso o sparire dalla circolazione per un qualche tempo dopo la storia della quindicesima commissione, finché non fosse ridivenuto quello d'un tempo e nessuno potesse mostrarlo a dito. Allora tutti, fino all'ultimo uomo, l'avrebbero pregato in ginocchio di tornare quando avesse ritrovato il senno. Morto non era. Semplicemente imboscato da qualche parte. La bara che hanno riportato era piena di sassi. Ha cambiato il nome in quello di Devet, il generale Boero. Ha fatto uno sbaglio a mettersi contro i preti e via di questo passo. Purtuttavia, Bloom, tale è il suo vero nome, era alquanto sorpreso della loro memoria. Perché in 9 casi su 10 si trattava di serpenti di mare, e non uno, ma 1.000. E poi l'oblio più assoluto, dato che la cosa risaliva a oltre 20 anni addietro. Assolutamente improbabile poi che ci fosse sia pure un'ombra di verità in quelle pietre. E anche a supporre di sì, egli stimava altamente sconsigliabile un ritorno, tutto considerato. Nella sua morte c'era evidentemente qualcosa che l'indispettiva, sia perché lui si fosse spento troppo tranquillamente per una polmonite, proprio quando le sue più svariate manovre politiche erano quasi in porto, o perché fosse trapelato come la sua morte fosse dovuta alla trascuratezza nel cambiarsi scarpe e vestiti dopo una bagnata, con la conseguenza di un'infreddatura, e alla mancata consultazione di uno specialista. Essendo egli confinato nella stanza finché non ebbe a morirne in mezzo al più vivo rimpianto, prima che scadessero 15 giorni. Oppure era possibilissimo che fossero desolati di vederselo levare di tra le mani. Certo, non essendo nessuno al corrente dei suoi movimenti, neanche prima, non c'era nessuna indicazione di dove si trovasse, e Era proprio una storia come quella di Alice, ove sei tu? Anche prima che cominciasse a nascondersi sotto falsi nomi, come Fox e Stewart, cosicché l'osservazione dell'amico fiaccheraio non esulava dal campo delle possibilità. Naturale che tutto ciò fosse diventato una spina nel cuore per lui, quale condottiero nato, il che senza dubbio era, e una figura imponente per giunta, 6 piedi buoni, o almeno 5 e 10 o 11 pollici senza scarpe, mentre certi altri messeri, che non valevano uno sputo di quell'uomo, rimasero a fare i galli nel pollaio anche dopo, per quanto non fossero precisamente persone raccomandabili. Certo era una lezione, l'idolo dai piedi di argilla, e poi 72 dei suoi fidatissimi tirapiedi a rivoltarglisi contro e a gettarsi fango addosso l'un l'altro, tale quale gli assassini. Bisogna che uno torni. È come una specie di ossessione nostalgica che ti trascina, per far vedere alla controfigura come si fa la parte principale. Lui l'aveva visto una volta in quella felice occasione in cui spezzarono i piombi dell'Insurpressible, o forse degli United Island, privilegio cui fu estremamente sensibile, e, a vero dire, fu lui a porgergli il cappello duro quando glielo fecero volar di testa, e lui gli disse grazie, eccitato com'era indubbiamente sotto quella sua frigida espressione esteriore, malgrado quella piccola disavventura capitatagli tra il lusco e il brusco, segno che ce l'aveva nel sangue, pure per quel che riguarda il ritorno. Ne hai di fortuna quando non ti sguinzagliano contro il terrier non appena ti ripresenti. Poi di solito c'è un sacco di tira e molla. Tizio è pro e Caio e Sempronio son contro. E poi, in primis, ti sei messo contro chi tiene il coltello dalla parte del manico e dovevi presentare le tue credenziali come il pretendente all'eredità Tichborne, Roger Charles Tichborne. Bella era il nome dell'imbarcazione, a quanto ricordava, nella quale lui, l'erede, era annegato, come lo provavano le testimonianze, e c'era anche un tatuaggio in inchiostro di china. Lord Beaulieu, vero? Non gli sarebbe stato difficile poi raccogliere particolari da qualche compagno di bordo, e quindi, messosi su in modo da corrispondere alla descrizione, presentarsi con un «Mi scusi, io sono il tal dei tali» o un qualche luogo comune del genere. Un modo di agire più prudente, come disse Mr. Bloom al non troppo espansivo signore accanto a lui, simile in questo al distinto personaggio in discussione, sarebbe stato quello di tastar prima il terreno. È stata quella vacca, quella puttana d'una inglese. La colpa è sua, commentò il proprietario della gargotta. È lei che gli ha fatto mettere il piede nella tomba. Bel pezzo di donna, però, osservò il suo disan segretario comunale Henry Campbell. È abbondante, ha fiaccato le reni a molti. Ho visto il suo ritratto dal barbiere. Suo marito era un capitano o un ufficiale. Certo, aggiunse Faceto Scorticacapre, lo era cannoniere, con le balle di cotone.